Letture di Radio 24. Un test effettuato dal Royal College of Music durante un concerto di musica corale di Eric Whitaker ha rilevato che durante la performance il livello di stress di pubblico e musicisti era molto basso. Questo proverebbe, secondo i ricercatori, che assistere a un concerto di musica classica ridurrebbe lo stress. Deve essere frustrante per gli scienziati che impiegano mesi di duro lavoro per riuscire a dimostrare le loro teorie, sentire poi il pubblico che commenta: beh, ma tutto questo è dannatamente ovvio, no? Questo il commento ironico del critico musicale Richard Morrison sulla scoperta fatta dai ricercatori. Morrison racconta poi com'era stato fatto questo test. Al concerto di Londra hanno raccolto campioni di saliva prima e dopo l'esecuzione a 50 spettatori e a una dozzina di musicisti. I campioni sono stati poi analizzati per verificare i cambiamenti avvenuti negli ormoni dello stress, il cortisone e il cortisolo. I risultati indicavano un netto calo dello stress tra il pubblico e un aumento momentaneo di stress tra i musicisti. Questo rappresenta una svolta nella psiconeuroimmunologia, spiegano i ricercatori, perché è la prima volta che questi ormoni vengono misurati in un concerto pubblico. Adesso abbiamo la prova, affermano i ricercatori, che ascoltare musica riduce lo stress, mentre suonare rende più stressati. Beh, ma questo è ovvio, direte voi. E in un certo senso lo è. Però io non me la sento di smontare questo lavoro scientifico realizzato dal Royal College of Music, per tre ragioni. Primo, i loro risultati già evidenziano delle sottigliezze che varrebbe la pena approfondire in futuro, come le differenze nei cambiamenti biologici avvenuti durante il concerto tra uomini e donne, tra giovani e anziani, tra il pubblico abituale e quello occasionale. Secondo, ogni prova che offra un supporto scientifico all'idea che la musica faccia bene è sempre utile, in un'epoca dove politici e dirigenti scolastici sembrano invece sempre più orientati a negare i vantaggi sociali, educativi e terapeutici della musica. Terzo, i musicisti professionisti sono molto indietro rispetto agli atleti professionisti quando si tratta di sfruttare il potere della scienza per migliorare la qualità e minimizzare gli effetti dannosi del loro lavoro. Un punto debole del test è che ha verificato la risposta del pubblico a un solo tipo di musica, le corali di Whitaker, un musicista i cui brani, dalle armonie esuberanti, sembrano fatti apposta per stimolare sensazioni di benessere. Mi domando se i livelli di stress sarebbero stati gli stessi se il pubblico avesse ascoltato il repertorio di Harrison Bitwistle, ad esempio. Una volta ho avuto l'onore di incontrare il professor Stephen Hawking e gli ho chiesto: è lo spazio la vera frontiera? No, mi ha risposto, è il cervello umano. E aveva ragione, naturalmente. La neuroscienza oggi si trova nelle stesse condizioni in cui si trovavano le esplorazioni geografiche nel XIII secolo. Abbiamo appena iniziato a esplorare il modo in cui le nostre menti generano le emozioni. La musica potrebbe essere un affascinante strumento in questa esplorazione, perché coinvolge aree molto diverse del cervello. Ma nessuno scienziato potrà mai dare una spiegazione plausibile su una questione apparentemente semplice, come ad esempio il fatto che un accordo in re maggiore ci dia una sensazione di trionfo, mentre uno in re minore ci mette malinconia. Per quanto riguarda la musica, oggi la psiconeuroimmunologia è solo un lungo nome per piccoli risultati. E questi erano alcuni passaggi dell'articolo di Richard Morrison. E così andare a un concerto riduce lo stress, ma solo se la musica non è stressante, dal numero di settembre del mensile BBC Music Magazine. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Letture di Radio 24. All'inizio di settembre, una giovane avvocata inglese, Charlotte Proudman, chiede il collegamento su LinkedIn, la nota rete di contatti professionali, al collega Alexander Carter Silk. Lui accetta il collegamento, poi aggiunge un commento. Charlotte, immagino che questo sia politicamente scorretto, ma la foto del suo profilo è favolosa. Decisamente lei vince il premio come migliore foto di LinkedIn. Lei non gradisce l'apprezzamento e poche ore dopo gli invia una pesante replica in stile Boldrini. Trovo il suo messaggio offensivo. Sono su LinkedIn per motivi professionali, non per essere contattata per il mio aspetto fisico o per essere trattata come un oggetto da uomini sessisti. La Proudman non si è però limitata a questo. Ha minacciato di denunciare il collega anche in sede legale, ha inviato una lettera al direttore dello studio legale dove lui lavora e ha approfittato dell'occasione per rilasciare intervista ai media su quello che definisce sessismo rampante nell'ambiente legale. Come prevedibile, nei giorni successivi si è scatenato un acceso dibattito sui media, ma non tutti si sono schierati dalla parte della giovane avvocata. C'è anche chi l'ha accusata di essere solo un opportunista, che sfrutta le debolezze del collega solo per sete di notorietà. Questa pesante accusa non arriva da un uomo, ma da una donna, la nota giornalista del Daily Mail, Sarah Vine. Ecco cosa scrive la Vine il 9 settembre. Cosa fareste se foste un'ambiziosa giovane avvocata, affamata di successo e impaziente di farsi notare nell'ultra competitivo ambiente legale? Beh, potreste bussare alle porte, inviare un'infinità di domande di lavoro, chiedere favori, fare lavori gratuiti, guadagnarvi il rispetto dei vostri superiori, costruirvi una reputazione lenta ma solida. Oppure potreste evitare tutte queste stupidaggini e crearvi da soli una tempesta mediatica. Entra in scena Charlotte Proudman, 27 anni, avvocata di successo presso lo studio legale di Michael Mansfield e dottoranda a Cambridge. Ragazza sveglia, la nostra signora Proudman, e brava nel suo lavoro pure, perché naturalmente la chiave del successo per un avvocato è imparare ad individuare i lati deboli degli avversari e avere le palle per sfruttare queste debolezze senza farsi troppi scrupoli. Sul banco degli imputati c'è un certo Alexander Carter Silk, un uomo di mezza età, padre di due figli e senior partner nello studio legale londinese Brown Rutnick. Il signor Carter Silk, 57 anni, è accusato di uno dei crimini più odiosi, di un atto così orrendo che ho qualche perplessità nel condividerlo con voi, cari lettori. Ma lo devo fare. Forse sapete che su internet esiste un noioso sito chiamato LinkedIn. È un sito di contatti che ha lo scopo di permettere a stimati professionisti di interagire tra di loro. Facendo parte di questa categoria, la signorina Proudman ha chiesto al signor Carter Silk, che non conosceva, se poteva aggiungerlo alla sua rete di contatti. Essendo lui un tipo accomodante, ha risposto di sì. Poi si è preso la libertà, forse per rompere il ghiaccio, di esprimere la sua ammirazione per la foto della signorina. A questo punto, la maggior parte delle donne normali avrebbe pensato: che uomo gentile. Davvero, la maggior parte di noi si sarebbe sentita lusingata, dato che i complimenti sono così rari oggigiorno. Ma non la signorina Proudman. Alex, gli ha risposto, trovo il suo messaggio offensivo. Sono su LinkedIn per motivi professionali, non per essere contattata per il mio aspetto fisico o per essere trattata come un oggetto da uomini sessisti. Vedere il lato erotico dell'aspetto di una donna è il modo in cui gli uomini esercitano il potere sulle donne. Mette in secondo piano le capacità professionali delle donne, dato che la loro bellezza diventa il soggetto principale. È un comportamento misogino e inaccettabile. Ci pensi due volte prima di mandare un messaggio sessista a un'altra donna che ha la metà dei suoi anni. Accidenti, direte voi. Ma che caspita aveva scritto lui? Quali atti perversi e vigliacchi avrebbe commesso per meritare un rimbrotto così pieno di risentimento? Aveva detto che gli piaceva la sua fotografia, un semplice complimento diretto. Se questo è classificabile come misoginia, allora la razza umana corre gravi rischi. Dio protegga quel pover'uomo che un giorno chiederà un appuntamento alla signorina Proudman o che magari cercherà di portarsela a letto. Avrebbe più successo se ci provasse con un porcospino. E come se la reazione isterica e ridicola della Proudman non fosse abbastanza, la signorina ha anche pensato di postare su Twitter il suo scambio di messaggi con l'avvocato, trasformando il dibattito in una dichiarazione di guerra. Immediatamente l'esercito delle femminaziste, piazzate in pianta stabile davanti ai loro computer in attesa di scagliarsi contro il primo debole accenno di politicamente scorretto, si sono mobilitate. Sicuramente in molti adesso chiederanno al signor Carter Silk di dimettersi. Lui dovrà certamente profondersi in scuse ufficiali e la sua povera moglie e i suoi figli saranno braccati dai media. E tutto per aver fatto un complimento virtuale. Ma davvero fare un complimento ad una donna può essere considerato un crimine? Ammettiamolo, non è come se l'avesse avvicinata in un bar e le avesse dato un pizzicotto sul sedere o se l'avesse abbordata su un autobus. Questo presunto atto di sessismo è avvenuto nell'etere e anche se fosse stato un po' troppo spinto, sarebbe stato comunque innocuo. La signorina Proudman, rivelando questa enorme mancanza di senso dell'umorismo e creando un immenso clamore su qualcosa di così insignificante, si è solo dimostrata debole e patetica. Eppure lei è un'avvocata sempre in prima linea nelle lotte femministe. Beh, cara avvocata, vai a difendere le vere vittime delle disparità anziché metterti a frignare su un messaggio un po' ambiguo. Il vero problema è che alla signorina Proudman non interessa aiutare le altre donne a sconfiggere il sessismo. A lei importa solo assicurarsi di essere al centro dell'attenzione. Forse il signor Carter Silk è stato un po' troppo audace. Forse non avrebbe dovuto commentare la foto. Ma se la signorina Proudman è convinta che con questa sua campagna mediatica sta facendo qualcosa di diverso dal cercare di farsi pubblicità a spese del signor Carter Silk, si sbaglia di grosso. E se volete averne la prova, vi cito una frase dell'intervista che la Proudman ha rilasciato l'8 settembre sui giornali. Il mio collega riceve messaggi che gli chiedono se gli interessa un lavoro negli hedge fund. Io ricevo proposte da uomini che vogliono uscire con me. Pretendo delle pubbliche scuse. Una cosa è certa, signorina Proudman. Hai ottenuto l'attenzione del pubblico. Missione compiuta. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Sarah Vine «Se un uomo non può più fare i complimenti a una donna, la razza umana è in grosse difficoltà» dal Daily Mail del 9 settembre. Sembra uno scherzo, ma non lo è. Un uomo cinese ha fatto causa a una nota attrice accusandola di avergli causato mal di testa, insonnia e disturbi depressivi fissandolo troppo intensamente e troppo a lungo dallo schermo televisivo. L'attrice si chiama Zhao Wei, stava interpretando la puntata di un serial di successo ed effettivamente, in una scena particolarmente drammatica, ha guardato per alcuni secondi direttamente in camera. Secondo lo spettatore seduto davanti alla TV di casa, guardava lui. E la cosa lo ha sconvolto. Tanto espressivi e belli erano quegli occhi. Le autorità giudiziarie cinesi hanno dato pubblicità al caso, anche per dimostrare che la nuova legge in base alla quale le autorità devono tenere maggior conto delle lamentele dei singoli cittadini funziona a dovere. Ma ora un giudice dovrà decidere. Può un'attrice anche meno famosa di Zhao Wei guardare lo spettatore per il tramite della camera da presa? Oppure chi recita dovrà volgere lo sguardo verso il soffitto, il pavimento, oppure altre persone, ma a condizione che si trovino lontane dalla telecamera? Il telespettatore querelante attende con ansia e i suoi sintomi, dice l'avvocato d'ufficio, continuano a peggiorare. Ma cosa accadrebbe a costui se gli capitasse di vedere un film con Anna Magnani o con Sharon Stone o con Scarlett Johansson? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Franco Venturini, Sguardi killer alla TV cinese, da Io Donna, del 29 agosto.